la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio caro ascoltatore di Radio 24, sono le 16.36, primi 43 secondi, quindi diretta agli studi di Radio 24 di Milano. Vado subito all'argomento del giorno per stimolare qualcuno di voi in ascolto. Ringrazio tutti, ringrazio chi ci scarica dal sito della radio per ascoltarci quando gli fa più comodo, perché non può stare in diretta, per telefonarci all'800 24 00 24 sull'argomento del giorno. Qual è l'argomento del giorno? È una proposta che viene da una parte d'Italia colpita dalla crisi, come tante altre, nell'industria, nell'impresa e nel lavoro, anche se non messa in ginocchio come altre parti d'Italia, perché tutto sommato una disoccupazione del 7%, però anche lì in quella provincia centinaia di casi di imprese fallite, chiuse, che hanno avviato il concordato, multinazionali attive nel settore presenti nella provincia, quello degli elettrodomestici bianchi, che hanno aperto lunghe crisi e abbiamo incertezze su come si comporteranno. Stiamo parlando dell'Electrolux, abbiamo fatto puntate su questo, se vi ricordate, documentandovi il calo del mercato degli elettrodomestici bianchi in Italia. E in questa provincia, Pordenone, l'Unione Industriale fa una proposta ai sindacati. Qual è la proposta? Dice: invece di aspettare solo Roma, il cui cambio delle politiche fiscali su imprese e lavoro ci delude e non arriva, tentiamo di tirarci sulle maniche insieme, facciamo un patto territoriale, cari sindacati, rappresentanti dei lavoratori, le imprese, per difendere la reindustrializzazione, i posti di lavoro, vi chiedono la disponibilità ad affrontare in un comitato paritetico, impresa, sindacati, la disponibilità a ritoccare il costo del lavoro, quindi le retribuzioni, anche i turni, gli orari, la produttività, per innalzare la produttività. Il cambio però ai lavoratori cosa diamo? Ai lavoratori diamo la partecipazione alle imprese, 1, 2, l'impegno diretto delle imprese a ricollocarli, 3, impegni di welfare aziendale al di là di quello nazionale. Ci state, sindacati, oppure no? Ne possiamo ragionare di un tavolo di questo tipo? E in estrema sintesi la proposta, vi chiedo a casa che impressione vi fa darsi da fare dal basso. Mi rendo conto che la delicatezza e la disponibilità ai lavoratori mettere a disposizione parte della retribuzione, visto che il fisco non si abbassa sul cuneo fiscale, in cambio di disponibilità delle imprese per vedere di tenere in piedi il più che si può tenere in piedi e rilanciarsi sui mercati internazionali. Come la pensate voi a casa? Ecco, questa è in sintesi estrema. Chi volesse approfondire troverà numerosi documenti sul sito di un'industria di Pordenone. Ieri avete sentito probabilmente alcuni di voi il presidente di un'industria Pordenone, Michelangelo Agrusti, che ha illustrato la proposta. E oggi però noi, per obiettiva completezza dell'informazione, diamo lo stesso spazio ai sindacati per sentire la loro opinione di fronte a una proposta che li chiama in causa, gli chiede, certo gli offre anche, però certo anche gli chiede. E come si può immaginare, chiedere al lavoro che è in ginocchio, bisogna vedere se davvero poi il lavoro vede una prospettiva di convergenza oppure no. Ecco, per parlare di questo è con noi il segretario della CISL di Pordenone, Arturo Pellizzon, che io ringrazio di essere ai microfoni. Buon pomeriggio, Pellizzon. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori di Radio 24. Allora, innanzitutto non sarà stata per voi, per la CISL, per la UIL, per la CGL, una sorpresa, no? Questa tirata fuori da un'industria Pordenone, oppure sì? No, non è una sorpresa per due motivi. Il primo è che Pordenone è una terra di grande qualità di rapporti relazioni sindacali, di relazioni, perché il primo contratto territoriale si è firmato a Pordenone a livello nazionale e siamo anche negli ultimi anni, compresi quelli della crisi, abbiamo firmato importanti accordi tra CGL, CISL, UIL e un'industria, Confindustria. Sarebbe Pordenone, la chiamiamo un'industria perché si chiama così. E posso chiedere anche, avete una, da quello che capisco, una buona tradizione anche di rapporti unitari nel sindacato? Beh, devo riconoscere, qui a Pordenone abbiamo cercato ovviamente di affrontare la crisi stando uniti, sì, cercando di essere concreti, un po' nelle nostre caratteristiche caratteriali, ecco, diciamo. E nella difficoltà siamo riusciti a, ripeto, a prendersi degli impegni tutti assieme, e finora, devo dire, la crisi è stata gestita con grandi difficoltà, con perdite, ma senza rotture traumatiche, sì, diciamo così. E quindi ve l'aspettavate, però adesso che c'è questa proposta sul tavolo, che dite? Cosa diciamo? Mi lasci aggiungere però alla sua buona presentazione della molto proposta, sintetica, quindi molto sintetica, ma è una cosa secondo me centrale, che questa proposta riguarda tre tipologie, diciamo, di situazioni aziendali. aziende che sono in grande crisi, per cui rischiano la chiusura, certo, no? E che hanno già consumato il pacchetto di ammortizzatori sociali, non riescono più a rilanciarsi, aziende che sono presenti nel territorio ma desiderano crescere e quindi fare occupazioni, o ultima tipologia, aziende che non sono qui presenti ma che dicono pordenone, andiamo a fare l'investimento, assumiamo delle persone. In questi tre casi un'industria cosa propone? Di creare un comitato, no, paritetico, Confindustria, sindacati, che, come dire, fanno entrare la possibilità per queste tre tipologie di avvalersi di questo contratto speciale, per cui non è un contratto generalizzato, abbiamo alcune imprese in provincia che vanno bene ed è finalizzato a questo, a queste tre tipologie diverse. Sì. Però più o meno lo scambio è appunto turni, organizzazione del lavoro, produttività, anche costo del lavoro, quindi anche un po' di salario, e in cambio, da quello che dicono i documenti, partecipazione, che è un tema caro alla CISL, impegno delle imprese per, diciamo, estendere casi di, come quelli di Luxottica, di welfare aziendale, impegno diretto delle imprese al ricollocamento. Cosa difficile, perché sappiamo che i centri per il reimpiego sono uno dei punti dolenti in Italia, quelli pubblici regionali. Certo, anche se anche in questo caso Pordenone segna qualche punto positivo, ma ora non abbiamo il tempo di descriverlo. Certo. Allora, guardi, cosa ne penso? Ovviamente stiamo ancora analizzando, perché la proposta, è vero che noi ovviamente non siamo stati colti in assoluta... Però è sul tavolo da un giorno, quindi... Però, quindi cosa ne pensiamo? Pensiamo che sia una occasione, come dire, intanto di sollevare una questione e di affrontare il tema. Questa proposta, innanzitutto, mi permetto di dirlo, è anche un atto d'accusa a, lei le ha citate anche prima, al governo centrale, tutta una serie di cose, e ognuno può aggiungere, come dire, le colpe degli altri in questo elenco che eviterò, di cose che si sarebbero potute fare prima di arrivare a questo punto. Arrivati a questo punto, noi, guardi, io faccio parte di quella categoria o di quella generazione di sindacalisti che ha due obiettivi: salvare i posti di lavoro e salvare il welfare, che non è quello che intanto abbiamo adesso e sarà quello che dobbiamo andare ad organizzare. Su questi due obiettivi io credo che oggi noi siamo chiamati alla valutazione. La proposta di un'industria c'entra l'idea di tenere le imprese qui. Aspetti un secondo, perché siccome il telefonino fa le bizze, allora noi anticipiamo un po' il traffico, la richiamiamo ed evitiamo questo gracchiare. Informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornate in diretta, 16:45 primi 30 secondi. Stiamo parlando di questa idea di patto territoriale a Pordenone per aziende che hanno praticamente esaurito gli ammortizzatori sociali, per quelle che vogliono investire da fuori, scommettendo sulla capacità di lavoro e produttività, su quelle che stentano comunque a tenersi in piedi, e la disponibilità a verificare uno scambio tra produttività, turni, organizzazione da una parte, dall'altra, e anche disponibilità a toccare, ahimè, la busta paga, e dall'altra partecipazione dai lavoratori delle imprese, welfare aziendale, ricollocamento. Qualche nostro ascoltatore che interviene attraverso gli sms, perché alcuni sono abbastanza favorevoli, dicono per esempio: vista la classe politica che c'è, questa è l'unica soluzione possibile, cioè dal basso, localmente, senza aspettare ciò che si promette ma non sarà mai fatto. Altri sono più scettici, c'è un altro ascoltatore che ci dice: l'azienda per cui lavoro ci ha proposto di rinunciare alla 14ª, benissimo, siamo una piccola realtà, vogliamo provare a superare questo momento, noi ci sacrifichiamo, però poi arriva l'Agenzia delle Entrate, si prende anche la nostra speranza, sia noi che l'azienda. Comunque, Pellizzon, allora, stava dicendo, disponibili ma? No, stavo dicendo che questa è una proposta che intanto spero si senta meglio. Sì, adesso meglio. La ringrazio. Questa è una proposta che pone il tema dal basso, come diceva qualche suo ascoltatore, no? Per cui, davanti a nulla che succede e noi che chiudiamo le imprese, questa è una proposta che indubbiamente pone le questioni. E guardi, dal mio punto di vista è un atto d'accusa per quelli che potevano fare le cose e non le hanno fatte. Dopodiché, ovviamente, adesso, siccome per mesi ci siamo riempiti la bocca dell'esperienza tedesca, è quello che all'inizio nel 2000 circa la Germania era in crisi, è quello che hanno fatto in Germania. È quello che hanno fatto nel 2003-2005, come no? Ecco, allora, ovviamente il tema di togliere come dire, soldi in busta paga ai lavoratori è un tema delicatissimo. Noi abbiamo il costo del lavoro tra i più alti d'Europa, ma lei lo sa, abbiamo le buste paga tra le più leggere. Qui bisogna implementare, credo che saranno i temi che poi ci troveranno a discutere, i temi del welfare integrativo, della bilateralità, e questi sono tutti argomenti in cui la regione Friuli Venezia Giulia innanzitutto, ma poi anche il governo nazionale, se mi permette, devono finire la stagione degli spot, delle belle dichiarazioni e dei dibattiti, e invece dire semplicemente: posso fare tre cose, posso mettere tre elementi per aiutare questa realtà. Ecco, io questo mi aspetto, ecco. E ovviamente questo avrà un peso se la proposta di un'industria verrà, prenderà gambe, correrà e troverà anche una soluzione, e mi sembra di dire che questa è una proposta che ha sollevato un polverone. Io ho ricevuto tantissime telefonate, vedo che anche una radio importante come Radio 24 ormai se ne occupa giorno per giorno, per cui il tema è posto. Perché sa, il problema è che appunto la delusione di tutto questo tempo che è passato, di questi colpi della crisi, effettivamente fa immaginare, siccome poi la corresponsabilità dal basso, la voglia di tirarsi sulle maniche, si è toccata con mano un grandissimo senso di responsabilità nazionale, questi anni che hanno messo in ginocchio il reddito disponibile degli italiani, di chi rappresenta il lavoro, di chi l'ha perso il lavoro come delle imprese. Allora tanto vale provare dal basso, cioè io sarei favorevole a esperimenti diffusi dovunque in tutta Italia di welfare integrativo dal basso, che poi insegue i diversi costi del lavoro, perché poi il mercato del lavoro non è che è uguale in tutta Italia, per niente, quindi avrebbe bisogno di allargare il più possibile. Certo, è anche una questione di cultura d'impresa, perché le imprese devono capire che a livello associativo devono moltiplicare le risorse per davvero diffondere il welfare aziendale integrativo e non farlo solo fare ai grandi. Questo è il problema. È chiaro che i piccoli hanno pochi soldi, straziati come sono, ma è a livello associativo che si costruiscono queste premesse. Per me è proprio una cultura della cooperazione che va costruita. Sentiamo come la pensano intanto anche alcuni nostri ascoltatori. Cominciamo da Giorgio. Giorgio che ci chiama da Treviso. Prego Giorgio. Buonasera, io sono un autonomo, un lavoratore autonomo, un po' come lei, ci siamo conosciuti a Gaglio comunque qualche tempo fa. Sì. Niente, volevo intervenire per dire che io ricordo, primi anni 70, che frequentavo allora, andavo ad uno studente, che un certo Gino Zoppas fece la stessa proposta alla Triplice e si vide trattato a pesci faccia. Altri tempi, sì, come sa, eh? Altri tempi, certo, ma voglio dire che questo per dire solo una cosa, che in questi territori questo tipo di tentativi di collaborazione azienda dipendenti esiste da decenni. Sì, sì. È solo stato un certo tipo di comportamento, di politica che è stata utilizzata criminalizzando il datore di lavoro invece di criminalizzare chi oggettivamente creava il problema, che è lo Stato italiano, e lei credo sia d'accordo con me, che ha creato solo problemi a chi che lavora. E quindi però il problema è riscoprirlo, perché io credo che più che rimangare oramai, giustamente, dice Giorgio, le polemiche del passato, bisogna tentarsi di occupare del presente, perché se dopo aver perso un quarto della produzione industriale, il 27% degli investimenti, il 3% del PIL pro capite, il 9% del reddito pro capite e 8 punti di PIL dal 2007, ciò malgrado facciamo 500 miliardi di export e ce la battiamo, vuol dire, sui mercati internazionali, vuol dire che una capacità è anche un valore aggiunto, una tecnologia, una capacità di cooperare. Abbiamo la più alta percentuale di piccole imprese che esportano in tutti i paesi manifatturieri del mondo, più della Germania. È chiaro che siamo in ginocchio, c'è un'Europa che funziona come non dovrebbe, c'è un paese pubblico con le sue regole, le sue tasse, tutto quello che sappiamo. Però di qui a dire siamo compromessi e finiti, a me non pare che bisogna fare così, e non ti sto e non le sto dando torto sul fatto che molte cose non funzionino. Io penso che qui c'è una cultura del lavoro e una capacità di risultati, che non bisogna arrendersi, bisogna costruire dove si può. È chiaro, la politica promette non fa, però io penso che di fronte alla rassegnazione di chiudere, se c'è un tentativo insieme di provarci, ci si debba provare. Questa è la mia idea. Francesco da Treviso, che dice Francesco? Caro Oscar, sì, Voglio dire che i sindacalisti sono la rovina d'Italia, sono dei banditi come anche le associazioni industriali. Se avessero le palle dovrebbero chiedere allo Stato di ridurre la bolletta dell'Enel di queste aziende del 50%. Ma qui tutti lo chiediamo, ma lo Stato non lo fa. Fanno lo sciopero, scendono in piazza, bloccano le autostrade, perché finché non lo fanno, qui tutti falliscono e le piccole e medie imprese, che non sono la Zanussi, non hanno mai voce in capitoli e i poverini vanno in banca, pesci in faccia, vanno avanti disperatamente, gli ipotecono le case, ecco. E poi come finiscono? Morti, allora, tutti siccome, morti. Siccome, come sai, dei piccoli me ne occupo spesso e più o meno la penso così, però qui il problema è anche fatto esattamente per loro, per i piccoli, questo tentativo, dove poi tra l'altro la cooperazione è storicamente più forte, è vero o non è vero, Arturo Pellizzon? Ma guardi, io posso dire che dalle nostre parti noi abbiamo delle imprese che sono nella concorrenza globale, abbiamo ad esempio imprese del mobile, che è un altro grande settore di Pordenone, che è fornitrice di IKEA, del sistema IKEA, dove abbiamo fatto degli accordi che sono già, come dire, sulla linea di questa, di alcuni punti elementi di questo, diciamo così, di questa proposta, per cui non è che nasca dal nulla. Esatto. Io ravviso invece la difficoltà, e ovviamente capisco che poi tutti noi possiamo chiedere, il problema è la delusione che non abbiamo ottenuto tutte le cose che chiedevamo. Guarda che abbiamo analisi, abbiamo già di tutto qui, noi, basta aprire qualsiasi sito di qualsiasi gruppo di pensiero, università. Ecco, allora qui cosa dobbiamo fare? Abbiamo alcune aziende che sono in grandissima difficoltà e purtroppo c'è la globalizzazione, ricordo. Ci sono 250 milioni di persone, operai, che guadagnano meno di $2 al giorno, e questa è la realtà. Quindi noi abbiamo invece un'azienda, abbiamo aziende di qualità, aziende che hanno qui una storia, un progetto. Se adesso diciamo che tutto è inutile, allora a questo punto è la fine, ma io credo che nessuno di noi deve a questo punto lasciarsi andare. E abbiamo una grandissima responsabilità. Ricordo prima, non so se si è sentito perché non funzionava il telefono, i sindacalisti, che poi possono essere criticati, hanno anche le loro indubbie responsabilità, ma anche qualche pregio nella storia d'Italia, hanno due obiettivi in questo momento: salvare i posti di lavoro e ricreare le condizioni di un welfare che regge. Su questo io credo che la sfida è aperta. E ricordo che ovviamente questa è una proposta di un'industria e che manca ovviamente delle controproposte del sindacato. E arriveranno queste? Io credo di sì, perché lì ci sono tutta una questione sulle politiche industriali che devono essere verificate. Qui non è che chiediamo sacrifici e dopo 3 anni richiudiamo tutto, no? O ci ritroviamo al punto a capo. Ci sono le questioni del mercato del lavoro, un mercato del lavoro, come diceva lei prima, impiantato, che oggi uno perde il lavoro è in una situazione drammatica, invece in tutta Europa uno perde il lavoro, non è un momento difficile, è un momento difficile ma viene accolto, tenuto in piedi, eccetera. E vi è anche un nuovo schema di relazioni industriali, non le sfuggirà che la proposta di Pordenone non è stata elaborata, direi, è stata elaborata dai pensatori. No, infatti c'è stato un comitato di pensatori di diverse tendenze. Il nostro tempo è finito, però insomma torneremo su questo. Grazie a Pellizzon, continuate su Radio 24.